con Valerio Carocci del Piccolo Cinema America per parlare di Cinema Cotral nei borghi del Lazio dal 20 luglio al 6 agosto 2019. Valerio, ben trovato. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci racconti di questa iniziativa? Allora, sì, dal 20 luglio al 6 agosto, grazie alla Cotral e alla Regione Lazio, da un'idea dei ragazzi del Cinema America con la direzione artistica di Atene della città, sarà possibile seguire un pullman della Cotral che viaggerà nei borghi più storici del Lazio, da Genazzano a Capena, Magliano Sabina, Città Ducale, Vallerano, Pontina, Pagliano e Montalto di Castro, per vedere capolavori del cinema nazionale e internazionale come Sing Street, Il Padre d'Italia, Basilicata, Coast to Coast, Fiore Gemello e Captain Fantastic e tanti altri. Da dove viene fuori questo evento? L'idea nasce da un dialogo tra i ragazzi del Cinema America e un giovanissimo altro ragazzo che lavora nella presidenza del Nicola Zingaretti, che è Lorenzo Sciarretta, in cui abbiamo ideato e immaginato come si potesse fare una campagna promozionale della Cotral stessa attraverso un viaggio per portare il cinema nei borghi dove il cinema non arriva più, perché magari le sale cinematografiche hanno chiuso. La scelta dei borghi e dei titoli? I borghi sono stati scelti in base a quelli sprovvisti di sale cinematografiche e dove non vi erano progetti attivi finanziati dalla Regione Lazio, quindi per un'equa distribuzione dei fondi e degli investimenti della rete regionali. E i titoli invece sono stati scelti da Alice nella città e sono un viaggio, un racconto del cinema che viaggia all'interno delle opere audiovisive, quindi a questo pullman che racconta storie all'interno dei borghi della Regione Lazio. Voi vi siete fermati all'ideazione o contribuirete anche in qualche modo alla prosecuzione del progetto? Noi abbiamo fatto l'ideazione in maniera del tutto spontanea e volontaria, stiamo facendo un po' di comunicazione e promozione sui social, ma la parte organizzativa è di Cotral e direzione artistica dice nella città. Sai come funziona tutto l'evento, una giornata in un borgo? Arriva il pullman, monta la platea, monta lo schermo, l'ingresso è gratuito, non ci sono recinzioni e tutti coloro i quali che vogliono partecipare possono liberamente farlo. Il programma è su www.visitlazio.com, web evento con Regione Lazio e Cotral del Cinema Riva in Piazza. I primi eventi, sai come sono andati? Tutto esaurito, tutto pieno, 20 luglio, 23 luglio, Genazzano in Capena e ci rivediamo il 26 luglio con Visage Village, l'opera di J.R. Agnès Varda, l'ultima in Piazza Garibaldi a Magliano Sabina. È un film per ogni borgo, che orario è? Serale? L'orario è sempre serale, gli spettacoli iniziano alle ore 21. Bene, allora ricordiamo l'evento Cinema Cotral nei borghi del Lazio dal 20 luglio al 6 agosto 2019. Un'ultima curiosità, Valerio, sarà replicato visto il successo di queste prime date? Il prossimo anno intendi? Non so, o anche più avanti nel calendario. Non ho idea, speriamo di sì, perché sicuramente è un bel evento per tutto il territorio nazionale. Allora, i riferimenti ce li hai dati. Un saluto e un ringraziamento a Valerio Carocci del Piccolo Cinema America che ha ideato il progetto. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Valerio. Grazie.